ringraziamento per aver fatto appositamente per me il mondo così grande e vario. Di aver fatto tanti miliardi di altri uomini in apparenza simile a me per tenermi compagnia e di averli disseminati dovunque affinché in qualsiasi punto vada non abbia a trovarmi solo. Inoltre di averne fatti vivere molti, molti altri miliardi prima della mia nascita, allo scopo che le loro avventure mi possano distrarre e far pensare. E di aver creato tante terre lontane dove, se fossi diventato esploratore, avrei potuto esplorare. E messo al mondo tanti sapienti, i quali mi potessero spiegare le infinite stranezze di questo regno, pur lasciandone la parte maggiore ancora avvolta nel mistero, affinché, se attratto, ne possa scoprire qualcuna anch'io, o perlomeno fantasticarci sopra nelle sere d'estate.